2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì, la sera, la domenica a cavallo del pranzo, ma come sempre vi consiglio di riascoltare la nostra puntata in versione podcast, anzi di consigliarla ai vostri amici, parenti, colleghi di lavoro. Trovate tutte le nostre interviste in versione integrale solo nell'edizione podcast di 2024. In questa puntata parleremo di intelligenza artificiale, che è uno dei grandi temi del momento, il mega trend di questi mesi. Oddio, se ne parla molto in questi mesi e questo è un mega trend per i prossimi anni, e scopriremo anche perché se ne parla molto proprio in questi mesi. Poi parleremo di un grande tema molto importante, molto sentito: i bambini e anche i ragazzi sono esposti a un sacco di brutte cose, un sacco di pericoli, di minacce, di aggressioni digitali in rete. I genitori hanno un ulteriore compito in questo mondo che sta diventando sempre più digitale, cioè quello di aiutare i più piccoli a proteggersi online. Di questo parleremo tra poco a 2024, adesso alcune notizie in breve nelle nostre Digital News. Digital News. Uno dei casi della settimana riguarda YouTube, che sapete è di Google. Decine di aziende, sono più di 250, hanno deciso di sospendere gli investimenti pubblicitari sulla principale piattaforma video online del mondo dopo che il Times, il britannico Times, ha dimostrato che alcuni spot video venivano mostrati prima di video violenti che promuovono odio, razzismo, estremismo, terrorismo e altre cose del genere. Ricordiamo che in caso di migliaia di visualizzazioni YouTube riconosce una quota della raccolta pubblicitaria a chi carica quel video, e in questo caso, nel caso denunciato dal Times, o meglio in questi casi, il risultato è che i brand, ma sono veramente tra i più famosi al mondo, oltre che al danno d'immagine per essere stati accostati a questi contenuti, li hanno anche finanziati, perché la pubblicità che vediamo prima di un video poi, dopo un tot di visualizzazioni, va a finanziare quel video. YouTube, lo ricordiamo, ha un sistema molto sofisticato che permette ad un marchio di scegliere dove andare a posizionare il proprio spot, perché ovviamente una pianificazione pubblicitaria di un marchio richiede anche la scelta dell'accostamento. Uno dice: magari io sono un marchio che vende prodotti sportivi e voglio essere accostato a video che fanno vedere cose relative allo sport, e quindi io posso andare a decidere cose di questo genere. Esiste anche un sistema di allerta che si basa sulle segnalazioni degli utenti e anche un team di persone che interviene, e nel caso specifico il Times ha dimostrato che anche dopo la segnalazione alcuni di questi video non venivano rimossi anche dopo le 24 ore che YouTube promette essere il limite oltre il quale, dopo una segnalazione, un video viene eliminato se viene riconosciuto come appunto contenuto da eliminare. Questo ci dice che i sistemi automatici sono ancora in alcuni casi deboli, anche se, ripeto, la piattaforma di YouTube è sicuramente molto complessa, molto sofisticata, permette un sacco di cose. Pensate al tutto il sistema di cui abbiamo parlato anche nel 2024 del riconoscimento del diritto d'autore, cioè se un video caricato rispetta o meno le regole relative ai diritti. Però ci sono ancora problemi su alcuni video che non vengono riconosciuti in maniera automatica. Poi il ruolo delle persone, che per la stessa missione di Google è ancora molto importante, tant'è che gli esperti che si occupano di questo a Google hanno promesso di assumere più persone, oltre che ovviamente migliorare i sistemi di intelligenza artificiale. A questo proposito, sempre in ambito di, diciamo, individuazione di contenuti non appropriati, Facebook ha cominciato a sperimentare un sistema per individuare e segnalare le cosiddette fake news, cioè le notizie false. Ci sono dei team che sulla base di segnalazioni scrivono proprio e segnalano che la notizia è falsa, e questo verrà messo in evidenza a chi vuole condividere quel contenuto. Questa sperimentazione non riguarda per il momento l'Italia, quando magari arriverà in Italia saremo più precisi anche per capire qual è il sistema tra tecnologia e persone che viene utilizzato per individuare le cosiddette notizie, le fake news, le notizie false, cosa che è piuttosto complicata perché in alcuni casi il confine tra vero e falso è, ci sono casi lampanti, ma ci sono casi dove bisogna fare veramente una ricerca approfondita. Dunque, due notizie che riguardano finanziamenti, una riguarda un'azienda italiana, l'altra un'azienda americana. Motor K, che è un'azienda specializzata in servizi digitali per la vendita di auto, sapete che il settore della vendita di auto attraverso internet sta crescendo a ritmo veramente molto interessante. Allora, Motor K ha annunciato di aver ricevuto il primo finanziamento, si tratta di un investimento da 10 milioni di dollari. Anche se l'azienda italiana, parliamo di dollari, si tratta del più alto finanziamento iniziale mai ottenuto finora da un'azienda digital italiana. La prossima settimana avremo un'intervista con Motor K, quindi vi racconteremo questo business molto interessante delle vendite di automobili attraverso la rete internet. Un altro finanziamento interessante riguarda il servizio di prenotazioni di hotel Last Minute, che si chiama Hotel Tonight, soprattutto via app, un servizio molto interessante e molto simpatico, che ha annunciato di aver raccolto un finanziamento da 37 milioni di dollari. Bambini e giovani, ragazzini, teenager, diciamo così, ma anche adulti poi, però gli adulti si presume che abbiano qualche elemento in più per reagire alle aggressioni digitali online. Sono sempre più frequenti, sono di vario genere, c'è chi ti vuole solo offendere, chi ti vuole deridere, chi ti vuole rubare l'identità, chi ti vuole rubare soldi. Insomma, succedono tante cose e soprattutto appunto per bambini e ragazzini il problema è che a volte non ci si accorge di quello che sta succedendo. Quindi bisogna imparare a riconoscere le minacce, a difendersi. Saluto Claudio Canavese, che è uno dei fondatori di Zanshin Tech. Benvenuto a 2024. Grazie. Iniziamo da questa parola, Zanshin Tech. Innanzitutto, che cos'è? È una scuola, dico bene? È un'arte marziale, però sì. È un'arte marziale digitale. Però, diciamo, l'associazione che si chiama in questo nome è, possiamo dire, una scuola? Sì, l'associazione è un'associazione di promozione sociale che promuove l'arte marziale Zanshin Tech. E voi insegnate che cosa? Noi insegniamo a difendersi dalle aggressioni digitali. Zanshin è una parola che in giapponese indica lo stato del maestro di arti marziali, che è sereno, concentrato, e anche se vede correre incontro a lui un uomo che urla e che vuole aggredirlo, lo attende, lo mette a terra con rispetto, senza fargli del male, e riprende il suo stato di Zanshin. Noi insegniamo a mantenere questo stato nell'uso delle tecnologie, a riconoscere gli attacchi che creano l'aggressione digitale e a fermarli con contromosse adeguate. Allora, quando si parla di minacce digitali, di aggressioni digitali, molto spesso si fa riferimento anche all'aspetto tecnologico, alla tecnologia. Voi invece vi concentrate soprattutto sul comportamento. Giusto? Esattamente. Non parliamo di antivirus o di minacce portate al nostro computer. Noi ci concentriamo su persone che attaccano altre persone utilizzando la tecnologia invece che utilizzare le spade, le mani o altri tipi di armi. Quindi è un'arte marziale che si occupa proprio di aggressioni di persone a persone. Vi rivolgete a chi? Bambini e ragazzi o un po' a tutti? Un po' a tutti. Di solito noi diciamo dagli 11 anni in su, perché verso gli 11 anni si sviluppa l'io sociale e quindi si inizia a guardarsi con gli occhi degli altri e a confrontarsi con gli altri. Sì. Mi fai alcuni esempi di che cosa intendete per minacce, per aggressioni digitali? Uh-huh. Mm? Beh, aggressioni digitali possono essere cyberbullismo, può essere l'adescamento di pedofili, possono essere le truffe online ai danni degli adulti, il furto di identità, tutto ciò che è un essere umano che aggredisce digitalmente un altro essere umano è aggressione digitale. Nell'aggressione fisica ci sono pugni, calci, prese al polso, prese al collo. Nell'aggressione digitale abbiamo identificato 13 tecniche di attacco, imparando a riconoscere quelle tecniche di attacco e a fermarle con le contromosse adeguate, si influenza l'aggressione via via che questa evolve e si porta l'aggressore dove lo vogliamo noi e di conseguenza a terra, nel senso che lo si disarma e lo si allontana. Queste cose, dalla vostra esperienza, sono rare, frequenti, molto frequenti, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma se io passeggio per una media città italiana, la probabilità di essere rapinato durante il giorno non è così altissima, no? Cioè, insomma, siamo in un paese abbastanza sicuro. Uno online potrebbe dire, beh, è più o meno la stessa cosa. Figurati se capita a me di essere non rapinato, oddio, sì. Si può essere anche rapinati digitalmente, però magari adescato per qualche motivo. Dipende molto dal comportamento, cioè se uno parte già dicendo figurati se capita a me, probabilmente è molto più a rischio di uno che dice sto attento, perché quando vai per strada sei istintivamente portato a guardarti intorno, prima di attraversare guardi a destra e a sinistra, nel mondo di internet non lo fai e questo ti mette a rischio. Molto lo fanno i comportamenti della persona che poi diventerà il bersaglio dell'aggressione. Noi non usiamo il termine vittima perché non sei vittima finché non ti arrendi, quindi sei un bersaglio. E, per la nostra esperienza, ad esempio nel cyberbullismo, quasi 2 ragazzi su 3 sono sotto attacco e non lo sanno. Cioè lo scopriranno in seguito oppure per qualche motivo l'aggressore si allontanerà per conto suo. Ma quasi 2 ragazzi su 3 sono sotto attacco senza rendersene conto. Mi fai un esempio, quelli che vuoi, di aggressioni? Sì. Quindi descrivendo anche che cosa succede. Perfetto. Qualche mese fa, quasi un anno fa, diciamo, uno dei nostri ragazzi viene contattato su Instagram da una ragazzina molto carina. Lui ha 13 anni e lei qualcheduno di più. E lei inizia a fargli complimenti, inizia a mostrare molto interesse per lui, è praticamente innamorata di lui. Lui però fa Zanshin Tech e sa perfettamente che questo può essere un inizio di aggressione. L'aggressione digitale inizia e tu non te ne accorgi, perché l'aggressore usa 3 tecniche, che sono la falsa identità, la seduzione e la raccolta di informazioni, per ottenere quello che poi servirà a realizzare l'aggressione vera e propria. Tutto ciò che ti può fare del male su internet lo dai tu al tuo aggressore. Questa ragazzina lo contatta, ha delle belle foto, è una bellissima ragazza, inizia a dimostrare amore e poi inizia a fargli domande per sapere cose personali. Lui però fa Zanshin Tech e applica il concetto delle arti marziali, cioè se tu mi vuoi aggredire e io mantengo il controllo, tu aggressore dipendi dall'aggressione, mentre io no. Quindi se io vado indietro, tu aggressore mi seguirai, se io vado a destra, tu aggressore mi seguirai, se io vado giù, tu aggressore finirai per terra. Questo ragazzino porta la ragazza in questione a fare tutta una serie di attività tecnologiche fino a che non la convince a farsi inviare un'email. Lo sa fare perché gliel'abbiamo insegnato, traccia questa email all'indietro scoprendo non solo qual è il computer che l'ha spedita, ma addirittura la vera identità della persona che lo sta contattando. È una persona che lui conosce, di una scuola che lui conosce, cioè la conosce nel mondo fisico, e ovviamente non è quella ragazza. Decide, quindi falsa identità. Falsa identità. Non solo stava usando la seduzione perché dimostrava tanto amore, e iniziava a fare domande, anche domande un po' più intime, un po' più imbarazzanti, per ottenere qualcosa, poi magari per sferrare un attacco, usare qualcosa di imbarazzante contro di lui. E lui addirittura... Cioè per ricattarlo. Esattamente. Ricattarlo o deriderlo pubblicamente. E cosa ha fatto? Ha contattato la persona nel mondo fisico per spiegarle che sapeva benissimo che era lei e che quello che faceva era sbagliato, addirittura poteva essere considerato reato. Quindi non solo ha fermato un'aggressione, ma ha tolto dalla circolazione un aggressore. Sì. Senti, cose che invece potrebbero accadere più facilmente agli adulti, o cose del genere capitano anche agli adulti? Cose del genere capitano anche agli adulti. In questo momento assistiamo a una sorta di pandemia di ragazze, signore carine, piacenti su Facebook che chiedono l'amicizia a degli adulti, dopodiché usano la tecnica della seduzione e li portano in video chat erotica, dopodiché registrano. Quindi loro si spogliano per prime, ma chiedono di fare lo stesso alla loro vittima, al bersaglio. E quando lui si spoglia, loro registrano e il giorno dopo arriva la richiesta di soldi. È proprio una vera e propria estorsione. È proprio un ricassissimo, un'estorsione. Certo però che da un certo punto di vista uno dice, ma basterebbe il buon senso. Invece evidentemente no. Sì, in realtà sì, le arti marziali hanno a che fare col buon senso. Le arti marziali hanno a che fare col proteggere la propria vita e la propria incolumità, una cosa che piante e animali hanno in maniera naturale. E infatti molto dell'arte marziale è ritrovare la mentalità naturale, semplice e in un certo senso fluida, no? Quindi muoversi a seconda del tuo aggressore e schivare l'attacco. Voi quante sono le scuole, non so se chiamarle scuole, Zanshin Tech? I dojo, le palestre Zanshin Tech attualmente aperte sono 4, 3 a Genova e una a Pavia, ma stiamo aprendo in più di 20 città italiane, a Roma, a Milano, a Monza, in tantissimi luoghi in Italia stiamo formando nuovi istruttori. È un business o è basato sul volontariato? Noi portiamo avanti un'arte marziale, quindi insegniamo un metodo, poi chi lo vuole applicare sul territorio decide come applicarlo. Ci saranno i dojo che fanno volontariato, ci saranno quelli che si fanno pagare. Sì, sì. Ricordiamo che dojo è un luogo dove si impara. Dojo è il luogo dove si pratica la via. Sì. E la via in questo caso è la via marziale. Sì, sì, ci sono anche dei dojo dove si impara a fare programmazione, giusto? E quelli sono i coder dojo. Sì, sì, coder dojo è stato utilizzato, ha utilizzato la parola dojo, ma non ha a che fare con le arti marziali. Sì, sì, certo, sì, però sì. Questa invece è proprio un'arte marziale. Sì, sì, però tradotto per chi non è esperto, diciamo che sono luoghi dove impari, no? Sì, sì, sì, in realtà ha proprio una connotazione addirittura religiosa, cioè sì, era sì, proprio sì, associato ai templi. Molti maestri di arti marziali adesso si rivolgono a noi per estendere l'offerta del loro dojo anche con l'arte marziale digitale. Senti, visto che stiamo parlando di tecnologia e quindi di aggressioni digitali, ma perché queste cose non le fate online e invece le fate in luoghi fisici? Perché serve forgiare la mente del bersaglio prima che diventi un bersaglio. Noi dobbiamo cambiare la mente delle persone in modo che abbiano lo zanshin, la vigilanza serena. Queste cose, perché visto che stiamo parlando di comportamenti, sono le stesse che gli esperti di tecnologia dicono andrebbero applicati in azienda, perché molto spesso gli attacchi che vengono portati in azienda sono basati su tecniche non basate sul software, solo sulla tecnologia, ma sulla ingegneria sociale, certo. Esattamente, sui comportamenti. Certo, molto spesso mi chiedono, ma c'è una scatoletta che metto in casa e protegge mio figlio dagli attacchi? Gli dico, sì, c'è, si chiama cervello, la vendono con il figlio, ma va programmata, va preparata. Sì, per un po' di tecnologia ci si può mettere, no? Assolutamente. Cioè, filtrare alcuni contenuti magari è una buona idea? Sì, soprattutto per i ragazzi più piccoli, assolutamente sì. Quando diventano un po' più grandi, però, i ragazzi imparano da soli a girare questi filtri. Mm-hmm. Quindi se mi affido solo alla tecnologia, in realtà è la tecnologia che controlla me, non sono io che controllo la tecnologia. Certo. Senti, di queste 13 tecniche ce le puoi svelare alcune? Sì, beh, le tecniche preliminari, la tecnica preliminare della falsa identità, quindi l'aggressore finge di essere un'altra persona, costruisce un profilo credibile, la seduzione, ci mette mesi, mi convince a fidarmi del mio aggressore, mostrando amicizia, mostrando amore. La seduzione è questa, poi c'è la raccolta di informazioni, che è il raccogliere informazioni anche molto intime, anche foto e filmati sono informazioni. Dopodiché l'aggressione evolve e può diventare personale o sociale. Personale se l'aggressore sceglie un canale personale riservato, ad esempio WhatsApp privati, Telegram privati, messaggi privati di qualche tipo. Abbiamo l'estorsione, quindi il ricatto, abbiamo le minacce, abbiamo poi quello che è proprio il cyberbullismo, cioè un attacco continuato, ripetuto e sistematico. Più attacchi scanditi nel tempo, senza pause e che picchiano sempre nello stesso punto. E che quindi portano il bersaglio a convincersi di quello che l'aggressore vuole dire, quindi che sono brutta, che sono grassa, che non dovrei vivere. L'aggressione sociale è fatta invece pubblicamente, equivale a un pestaggio fuori da scuola. C'è sempre il cyberbullismo, quindi l'aggressione continuata, ripetuta e sistematica, c'è il furto di identità. C'è quello che noi chiamiamo disvelamento, cioè prendo tutte le informazioni riservate che mi hai rivelato e le uso per distruggerti pubblicamente. ci sono anche tante altre tecniche e alla fine quella che noi teniamo separata dalle altre è l'istigazione al suicidio, che non sempre c'è, ma quando c'è ovviamente provoca i danni più gravi. Molte di queste sono reati. Assolutamente sì, e quando c'è un reato è necessario fare denuncia e è molto efficiente, nel senso che si ferma in maniera molto decisa un'aggressione. Si può fermare un'aggressione in fase preliminare, non si fa male a nessuno. Si può fermare quando è già andata avanti, addirittura all'ultimo, quando sono quasi convinto a gettarmi dalla finestra, posso sempre fermare un'aggressione. Lì ci vorrà un atto di forza, un atto di forte decisione e probabilmente bisognerà rivolgersi all'autorità. Quindi voi avete anche rapporti con le autorità, con la polizia? Più che altro noi indirizziamo a loro molte volte le persone che vengono da noi, ci raccontano il loro caso e se ci sono dei reati noi diciamo vai a fare denuncia. Certo. Senti, un'ultima domanda riguarda quanto dura un corso, una esperienza Zanshin, cioè quando si diventa esperti di aggressioni digitali, cioè di difesa? Bellissimo, hai usato la parola esperto che è precisissima. Nelle arti marziali la cintura nera non è il maestro, è l'esperto. Il maestro arriva dopo. Per noi l'esperto è il bracciale arancione, noi abbiamo dei bracciali colorati. Ed è il secondo bracciale che si prende. Si entra come bianchi, poi si diventa bianchi arancioni, ad arancioni si è già esperti. Poi se si vuole fare l'insegnamento, quindi se si vuole diventare istruttori, si prosegue il percorso. Diciamo che in 6-7 mesi i ragazzi iniziano già a sviluppare una buona mentalità, iniziano a fermare le prime aggressioni. Nell'arco di un annetto, due annetti, potrebbero arrivare al bracciale arancione. Poi ovviamente ognuno ha al suo percorso, alla sua velocità e ciascuno viene seguito coi suoi ritmi. Bene Claudio, io ti ringrazio per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie. Abbiamo parlato di comportamenti, c'è chi dice, chi sostiene che il comportamento, il modo con cui uno utilizza la tecnologia sia la cosa più importante quando si parla di sicurezza in rete. Beh, è altrettanto importante la tecnologia che viene utilizzata, né l'una né l'altra sono meno importanti, né l'una né l'altra sono più importanti, insomma sono due strade parallele, bisogna avere la tecnologia adeguata, soprattutto nelle aziende ma anche in casa, e bisogna saper riconoscere le minacce digitali, saper come poi questa tecnologia si comporta o comunque come ci si deve comportare indipendentemente dalla bontà della tecnologia. Molti dei danni nelle aziende sono causati da un cattivo comportamento, non da una cattiva tecnologia, così come molti danni sono anche causati dalla cattiva tecnologia o comunque dalla mancanza a volte di tecnologia. Adesso parliamo di hardware e di software, di un servizio che parte da un router. Tutti quelli che hanno internet hanno qualche cosa che si chiama router, che è una scatola, una sorta di porta d'ingresso verso la rete internet. Tipicamente l'operatore telefonico che ci offre il servizio a internet ci fornisce il router. Apro una parentesi e la chiudo molto velocemente. C'è addirittura un'interrogazione parlamentare che è stata portata avanti in queste settimane per chiedere come mai in Italia, ma succede anche in altre parti d'Europa, gli operatori telefonici impongono di usare il proprio router, mentre secondo alcune norme europee ci dovrebbe essere libertà. Magari parleremo presto anche di questo tema, che può sembrare una questione di poco conto, ma invece per alcuni è una questione molto importante. Chiusa la parentesi. Adesso parliamo di un router che mette in sicurezza la rete di casa. Si chiama Routerino. Saluto Stefano Caminaghi, che è uno dei fondatori di CF Box, che è la startup che sta lanciando Routerino, che arriverà tra poche settimane anche sul mercato. Ed è un router, ma è collegato a questo, c'è anche un servizio. Stefano, benvenuto a 2024. Grazie Enrico per l'ospitalità e soprattutto per l'attenzione al tema. Il tema è molto importante perché i bambini non hanno strumenti culturali per stare attenti a quello che c'è in rete, al caos della rete. Esatto. i bambini ormai per spontaneità o per necessità scolastiche sempre prima iniziano ad interagire con gli smartphone dei genitori, il tablet dei genitori piuttosto che i PC per le cose più disparate, dalle più ludiche, quindi fare un gioco in internet o un gioco sullo smartphone, a vedere un video di una canzone o ascoltare musica in streaming. Quindi sono sempre più spesso a contatto con contenuti che arrivano dalla rete. Con contenuti che arrivano dalla rete. E i bambini sono ingenui, non hanno la cultura per poter capire tutto quello che gli viene proposto poi dal dispositivo. Penso ad esempio a quando giocano con uno smartphone ad un gioco e ci sono quasi sempre quelle stringhe, quei pop-up molto colorati che attirano molto l'attenzione dei bambini e che può capitare che magari ci cliccano sopra e rimandano ad un sito e-commerce oppure ad un sito di abbonamento di suonerie o a siti che comunque non sono adatti per un bambino tra i 3 e i 10 anni, 12 anni sostanzialmente. Sì, sì. Certo, è incredibile sapere e registrare che ci sono bambini così piccoli che vanno su internet o comunque che usano già strumenti di questo genere. Bisognerebbe fare un corso di educazione anche ai genitori prima che ai bambini, però così è. È corretto e noi siamo uno degli obiettivi che ci siamo posti è anche cercare di sensibilizzare il genitore all'approccio educativo del bambino allo strumento o ad internet. Sì. È uno degli obiettivi che in effetti ci siamo posti. Certo, mai nessuno si sognerebbe, o comunque pochi si sognerebbero, di lasciare un bambino magari di 5 anni da solo in giro per una città, digli passeggia dove vuoi, fai quello che vuoi e parla con sconosciuti, con chi vuoi. Invece su internet facciamo esattamente la stessa cosa, o comunque molte persone fanno la stessa cosa, cioè lasciano i bambini in balia della rete. Allora, voi che cosa avete pensato? State lanciando, dal prossimo mese sarà in commercio e in questi giorni è in campagna su Kickstarter, un router che avete chiamato routerino, piccolino. Corretto. Per i bambini. Che cosa fa questo router? Allora, routerino è un servizio di parental control. È un piccolo router che viene installato in casa in maniera molto semplice. Uno degli obiettivi che ci siamo posti è assolutamente la semplicità di installazione ed utilizzo. Questo router crea una nuova Wi-Fi in casa, come se fosse una bolla dove tutto ciò che viene collegato a questa rete Wi-Fi è protetto. È protetto da contenuti catalogati di internet. I contenuti possono essere i più disparati, perché di primo acchito si pensa subito a contenuti per adulti. Sì, alla pornografia. Però, esatto. Però in realtà ce ne sono tanti di contenuti che i bambini non sono ancora pronti a vedere. Per esempio, contenuti di violenza, i social, quindi tutto ciò che viene, che transita attraverso i social network, tutto ciò che transita come e-commerce, quindi siti di acquisto online, dove magari c'è la user e password è già impostata all'interno del web e il bambino entra e inavvertitamente fa click e un po' si trova con un acquisto. Compra un frigorifero. Compra un frigorifero su Amazon direttamente. Quindi voi che cosa fate? Di fatto mi date un servizio che crea una rete Wi-Fi e bloccate alla fonte, cioè alla radice, tutta una serie di siti internet che decidete voi? No, allora, è corretto che abbiamo traslato il problema, perché ci sono delle soluzioni di parental control, chiaramente, generalmente vengono utilizzate all'interno dei singoli dispositivi. Quindi devi installare un software sul telefono, non sul computer, bla bla bla. Però le soluzioni possono essere installo un software o un'app sul telefono, sul computer, piuttosto che creo un account specifico che mi limita soltanto determinate ricerche in internet su quel specifico device. Noi abbiamo spostato tutto a monte, quindi è un filtraggio di internet nella sua interezza. In questo modo non bisogna fare nulla su alcun dispositivo che si ha, non bisogna né installare applicativi, né installare software, né fare alcuna tipologia di impostazione, perché tutto viene filtrato a monte. Utilizziamo dei partner tecnologici di primaria importanza, sono gli stessi partner tecnologici che vengono utilizzati in ambiente aziendale. E quindi diciamo che portiamo questi concetti, queste tecnologie utilizzate in ambienti aziendali, ridimensionandoli per un contesto familiare. Visto che routerino crea una rete Wi-Fi in casa, Sì. Io sono il genitore, a questo punto anche a me viene bloccato tutta questa lista di contenuti. Diciamo che tutti i dispositivi che si collegano a questa rete Wi-Fi passano dal filtro di routerino, però il genitore è libero ed è consapevole di poter collegare il dispositivo che sta utilizzando in quel momento nelle sue proprie mani alla rete Wi-Fi nativa che ha in casa, alla telecom, alla fastweb della situazione, dove non c'è assolutamente filtraggio, quindi può navigare liberamente. Certo, perché voi vi agganciate al router degli operatori telefonici. Esattamente, noi utilizziamo la rete internet che già arriva in casa, quindi tipicamente con il router dell'operatore. Il routerino viene collegato con un semplice cavo che viene fornito in dotazione. Con la corrente elettrica il routerino è già operativo. Senti, una cosa che mi sembra interessante è che voi filtrate anche contenuti all'interno di siti che sono comunque accessibili, giusto? Tipo io vado su YouTube, sì, ci posso andare, ma se faccio un certo tipo di ricerca non visualizzo certi contenuti. Esatto, tutti i motori di ricerca hanno un servizio di gestione di parental control, però deve essere impostato, per ogni dispositivo bisogna loggarsi con un utente e nelle caratteristiche dell'utente dire che in quel momento la ricerca su Google deve essere sotto parental control. Noi evitiamo tutto questo perché il routerino è come se forzasse le impostazioni da qualsiasi dispositivo e utilizza il parental control. Quindi, per esempio, se io faccio una ricerca su YouTube di un video selezionando la parola fight oppure lotta, sotto la rete nativa avrò dei video con contenuti di violenza esplicita. Sotto la rete routerino la stessa identica ricerca mi darà dei video tendenzialmente di cartoni animati o comunque che non hanno contenuti di violenza esplicita. Stefano, grazie e in bocca al lupo. Grazie mille. Aggiungo alcune informazioni. Tutto questo sistema si basa su alcuni database internazionali forniti da aziende specializzate che mappano la rete internet e catalogano tutto quello che c'è su internet, e proprio sulla base di questi giganti, questi mega database che sono sempre aggiornati, routerino funziona e può appunto decidere se un sito è adatto o non è adatto ad un bambino. Anche se poi il genitore può entrare nel pannello di controllo e aggiungere o togliere dei permessi rispetto ad alcune categorie di siti che si basano su questi giganti database in giro per il mondo. Allora, una soluzione simile a quella di cui abbiamo parlato è quella che permettono di fare i router che si collegano ad OpenDNS. Vi invito a visitare OpenDNS, che è un sito molto interessante, molto istruttivo. Allora, OpenDNS garantisce una serie di livelli di protezione della propria rete di case, si possono decidere vari livelli di protezione, ci sono dei router sul mercato che permettono di fare questa scelta, di collegare appunto il router con questo tipo di DNS, quindi di fatto di proteggere la rete di casa. Poi c'è l'altra soluzione, abbiamo detto in questo caso quello di cui abbiamo parlato con routerino, si decide di risolvere il problema alla base, cioè si protegge la rete internet e tutti i terminali, quindi il computer, lo smartphone eccetera, che accedono a quella rete internet sono protetti da questo filtro. Però si può anche scegliere un modo diverso che per alcuni è più scomodo, però ci sono anche alcuni vantaggi, cioè installare un software di parental control sul device, cioè sul computer, sullo smartphone, sul tablet. Quando parliamo di software di parental device ci sono anche delle applicazioni, delle app. Una che mi piace segnalare si chiama K9, K9. Allora, il vantaggio, però c'è anche uno svantaggio, Allora, il vantaggio in questo caso è che se un bambino col suo tablet va dall'amico e la casa dell'amico non ha magari una protezione, beh, quel tablet è protetto anche sull'altra rete internet, essendo un device mobile, viene protetto quando si va su un'altra rete. Ovviamente lo svantaggio è che ogni terminale deve avere il proprio software, quindi questa è sicuramente una scocciatura da un certo punto di vista, ma comunque richiede disciplina. Un altro servizio di cui abbiamo parlato tanto tempo fa, perché effettivamente esiste da molto tempo, uno dei primi nati in questo ambito, si chiama Davide.it. Comunque, l'obiettivo anche di questa chiacchierata è sollevare il problema e richiamare l'attenzione, soprattutto dei genitori, a questo tipo di attenzione, cioè la protezione della navigazione dei più piccoli. Siete all'ascolto di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, riprendiamo fra un minuto. Riprendiamo questa puntata della nostra trasmissione, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che potete interagire con noi anche via Facebook e anche via Twitter. Se però i vostri messaggi sono lunghi, magari è preferibile la email. Vi ricordo anche che 2024 è l'unico programma di Radio 24 presentato in edizione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi molti più contenuti rispetto a quello che ascoltate alla radio. Il bello di internet, no? Adesso parliamo di intelligenza artificiale, ci facciamo alcune domande, cercando anche le risposte, ci aiuta Edmondo Orlotti, che è il responsabile dello sviluppo del business in ambito di supercalcolo in HPE Hewlett Packard Enterprise. Bentornata a 2024. Grazie e un saluto agli ascoltatori. Dunque, diciamo subito che tu ti occupi di supercalcolatori, di high performance computing, come si dice, ma sempre più negli ultimi tempi, e immagino sempre più in futuro, di intelligenza artificiale, giusto? Sì, perché la capacità di calcolo che serve per l'intelligenza artificiale usa tecniche di high performance computing. È vero che c'è anche nel mondo industriale, nel mondo finanziario, questa euforia pazzesca, gli americani direbbero un hype incredibile sulla artificial intelligence, quindi sulla intelligenza artificiale? Sì, siamo nella fase cosiddetta dell'entusiasmo. È una tecnologia che è stata abilitata soltanto da pochi anni e gli scenari che si intravedono sono molto promettenti. Quanto poi questi scenari possono tradursi in realtà, questo è un altro discorso, però sicuramente è l'argomento del giorno. Ecco, poi infatti noi cercheremo anche di sfatare alcuni miti catastrofisti che ci dicono che magari fra 2 o 3 anni nessuno di noi avrà un lavoro. Ripeto, a 2024, che anche io guardo con molta attenzione tutto questo mondo, perché ho visto recentemente una presentazione di Adobe che, proprio con tecniche di intelligenza artificiale, riesce a riprodurre la voce umana con una qualità fantastica, e uno di fronte a una cosa del genere dice: ah, ho capito che una persona che scrive su un computer può, con una traccia vocale mia, può riprodurre la mia voce. Però da qui poi a metterla in pratica e riprodurre effettivamente tutto quello che fa l'umano, ce ne passa. Domanda che può sembrare banale: che cos'è la intelligenza artificiale? Che è una cosa che in realtà esiste tra i tecnici da 20, 30, 40, 50 anni. Sì, dagli anni 50. L'intelligenza artificiale è quell'area dell'informatica che si occupa di costruire macchine in grado di simulare l'intelligenza umana. Quindi è un filone di ricerca molto ampio che ha come obiettivo quello che noi vediamo oggi nei film di fantascienza. L'obiettivo remoto di avere un sistema in grado di comportarsi come un essere umano. Tu dici già remoto. Remoto perché fino ad oggi l'abbiamo visto solo nei film di fantascienza, e non è, per fortuna, replicare l'intelligenza umana non è una cosa così semplice. Però ci arriviamo. Però ci stiamo muovendo in quella direzione. Cioè, tu dillo subito, così sei. Perché io effettivamente, vedendo e parlando con tante persone, vedendo quello che sta succedendo, cioè, mi sembra di capire che questa capacità di replicare le competenze umane anche in compiti molto fantasiosi, nell'improvvisazione, nella creatività, secondo me ci stiamo arrivando e ci arriveremo molto velocemente. Ma io invece credo che ci arriveremo tra un po', ci vorrà un po' di tempo. Quello che è certo è che sicuramente tutta una serie di compiti molto specifici che oggi richiedono la presenza dell'essere umano, quei compiti specifici delimitati saranno sempre meno necessari. Sarà sempre meno necessario l'intervento dell'essere umano. Sì. Quindi su questo aspetto sicuramente con l'andare del tempo dovremo preoccuparci di aprire nuove professioni, perché ricordiamoci anche che comunque tutti questi sistemi di intelligenza artificiale non funzionano da soli, quindi richiedono competenze diverse magari da quelle che ci sono oggi, ma richiedono ancora competenze umane. I tecnici oggi e voi che vi occupate di questi temi dite che oggi c'è grande attenzione su quella che viene definita intelligenza artificiale ristretta, narrow artificial intelligence. Sì, viene definita come narrow o weak AI perché in realtà si occupa di utilizzare tecniche di intelligenza artificiale solo su compiti molto precisi. Ad esempio faccio riconoscimento di immagini, riconoscimento facciale. Questo è un compito molto specifico, molto specializzato, sul quale io vado a utilizzare tecniche molto particolari di intelligenza artificiale. Però un sistema che fa riconoscimento facciale non è un sistema che ad esempio fa riconoscimento vocale, oppure un sistema che è in grado di, da quel riconoscimento facciale, di dedurre le informazioni che un essere umano può dedurre. Ecco, questo è un aspetto molto importante da tenere a mente, cioè oggi siamo in presenza di sistemi che fanno bene e faranno sempre meglio specifici compiti. La sfida è mettere tutti questi compiti assieme e far diventare le macchine veramente come noi umani, cioè noi siamo capaci di stare in equilibrio, parlare, guardare, eccetera, eccetera. Sì, questo è lo scenario della fantascienza. Se però pensiamo anche ai compiti specializzati, c'è un esempio che a me piace ricordare, perché di per sé è un filone molto ristretto, che è quello del riconoscimento delle immagini, in particolare nella diagnostica medica. Quando io vado ad analizzare i risultati dei miei esami per immagini, quindi risonanze magnetiche piuttosto che TAC, via dicendo. In questo ambito le macchine che sono in arrivo saranno in grado di essere un ausilio per il medico che deve analizzare queste immagini, potranno aiutarlo a identificare delle particolarità che altrimenti potrebbero sfuggire all'occhio umano. Con l'andare del tempo, però, una caratteristica fondamentale dell'intelligenza artificiale è che i sistemi informatici imparano, quindi fanno training e quindi nel tempo diventano sempre più bravi. Sì. Questo significa che, superato un certo limite di tempo, questi sistemi saranno più efficienti dell'essere umano. Questione di anni. Questione di pochi anni in questo caso, compiti specifici. Su compiti specifici. Questo è il famoso machine learning. Esattamente, esattamente. Che non è da confondere con l'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale è tutto il mondo. L'intelligenza artificiale sì, è tutto il filone di ricerca. Il machine learning è una tecnica particolare per la quale la macchina è in grado di imparare quello che deve fare senza essere stata programmata in anticipo. Noi oggi siamo abituati a computer per i quali bisogna dirgli esattamente linea per linea tutto quello che devono fare. Sì. La macchina che fa learning impara, e impara attraverso un training, quindi io devo dargli un numero sufficiente di dati e questa macchina, proprio come succede all'essere umano, cioè quindi un bambino impara crescendo, la macchina impara allo stesso modo. Certo, il problema è che noi umani ci mettiamo, se siamo fortunati all'esame di maturità, diciamo diventiamo maturi, adesso giusto per dare un ordine temporale, la macchina questa roba la fa in pochi minuti. Lo fa sì e no, nel senso che la macchina lo fa in pochi minuti quando si tratta di compiti specifici. O comunque quando ha una serie storica su cui studiare. E quando ha una base di dati accessibile. L'essere umano a 20 anni ha imparato molto di più, ha imparato a stare in piedi, ha imparato a riconoscere, ha imparato a fare tantissime cose. Il cervello umano è sufficientemente sofisticato. Ok, questo è machine learning. C'è un'altra cosa che viene detta spesso, lo vogliamo specificare perché poi questi termini vengono confusi dai più, vengono usati come sinonimi. Deep learning, che cos'è? Sì, il deep learning, diciamo questa terminologia la dobbiamo a Google, che ovviamente si è interessata a problemi di intelligenza artificiale, che nel 2012 ha coniato questo termine del deep learning, che è una particolare tecnica per fare machine learning utilizzando reti neurali. Senza entrare nella complessità di tutte queste definizioni, il deep learning utilizza reti neurali complesse, quindi una particolare metodologia che richiede da un lato una notevole potenza di calcolo e dall'altro una notevole quantità di dati. Sì. Quindi non c'è da stupirsi se questa terminologia sia arrivata da Google, che ha a disposizione tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Certo. Allora, recentemente io ho incontrato Tom Davenport, che è un esperto di queste tecnologie, e gli ho proprio fatto questa domanda: perché soprattutto in questi mesi si sta parlando così tanto di intelligenza artificiale? Well, I think what's really new is that we have much much more data. Quello che è veramente nuovo è che oggi abbiamo molti, molti più dati di quanti ne avessimo in passato, e le tecnologie di intelligenza artificiale hanno bisogno di molti dati per funzionare. Think of all the online data that we have, all the medical data, all the sensor data from various sources. Pensate a tutti i dati dei servizi online, i dati medici o i dati che provengono da sensori di vario genere. Tutto ciò, questi programmi di intelligenza artificiale ci permettono di prendere migliori decisioni e agire in modo migliore. The other thing is that we have more powerful processors, particularly in the cloud, you can get. L'altro elemento riguarda la maggiore capacità dei processori, in particolare nel cloud, dove è possibile avere tecnologie molto potenti per pochi soldi. Tom Davenport dice proprio questo: abbiamo molti dati, e i dati sono sempre di più, e i dati sono lo strumento principale su cui puoi andare a fare analisi. E se noi abbiamo tanti dati possiamo fare delle analisi molto più sofisticate, e questa è una delle tante sfide di questo mondo. È un po' come qualche anno fa si diceva business intelligence, sempre una cosa basandosi su dati, giusto? Assolutamente, io devo riuscire a capire quali sono le informazioni utili per il mio scopo da definire attraverso un oceano di dati. Certo. Non a caso si parla di data lakes molto spesso. Data lake, no? Laghi, esatto, un lago pieno di dati. Un paio di puntate fa abbiamo, e quello era un esempio semplice perché come vedete tutte le cose poi sono legate, abbiamo parlato di frutticoltura di precisione, e anche qui la tecnica è: caro contadino, vai in giro per il tuo frutteto a misurare i frutti, raccogli dei dati, questi dati vengono elaborati e da lì si scoprono tante cose, tante informazioni interessanti per far crescere meglio il frutteto. Insomma, sostanzialmente quello è. Diceva Davenport che abbiamo anche più capacità di calcolo, e un elemento che lui cita è il cloud. C'entra il fatto che il cloud si stia espandendo e diventi una cosa accessibile ai più anche a basso costo? Ma allora, qui si può scatenare un dibattito questo argomento, senz'altro. Allora, sicuramente il cloud gioca un ruolo quando le aziende che si vogliono avvicinare a questo mondo dell'intelligenza artificiale hanno esigenza di sperimentare, provare, crescere in questo contesto. Poi, quando sia il caso di utilizzare cloud o infrastrutture proprie, quello dipende dalla situazione individuale di ogni azienda. Cioè, non bisogna essere talebani, tutto cloud, cioè non è che il mondo è tutto cloud. È cloud quando oggi serve. A oggi no. Buona parte del mondo non lo è. Certo, però dico, visto che ci sono i talebani che dicono puoi fare tutto col cloud, non è sempre detto, e dipende da cosa devi fare, quando lo devi fare e anche dalle tue dimensioni aziendali. Diciamo che le risposte a problemi complessi richiedono soluzioni complesse. Certo. Possiamo fare degli esempi di applicazioni di intelligenza artificiale? Ma sì, certo. Pensiamo innanzitutto, visto che nominavi il cloud, pensiamo ai principali cloud service providers. Quindi pensiamo ai Google, ai Facebook, Amazon e Microsoft della situazione. Sì. Loro utilizzano già intelligenza artificiale, sono forse tra i principali consumatori, perché quando noi forniamo i nostri dati, quando loro processano i nostri dati su Facebook o su Google, loro costruiscono dei profili, diventano intelligenti, capiscono quelle che sono le nostre abitudini, e lo vediamo magari attraverso gli smartphone, tentano anche di aiutarci nei compiti quotidiani. Quindi lasciamo l'ufficio e automaticamente ci arriva il messaggio sullo smartphone: ci metterai 20 minuti per tornare a casa. Questo è un esempio di utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale. Cioè l'utilizzo di dati e di intelligenza artificiale per darti delle informazioni utili. Esattamente, questo è un esempio. Un settore che è stato tra i primi ad adottare l'intelligenza artificiale è stato quello del mondo dei servizi finanziari. sotto vari aspetti, sia per quanto riguarda il trading, per riuscire a sviluppare tecniche di trading più evolute, questo è stato uno degli aspetti, ma può essere utilizzato anche diciamo al di fuori del trading, anche su servizi di base come può essere quello di un contact center, ad esempio, i call center. Sì. In cui l'operatore che sta parlando con l'interlocutore al telefono, l'operatore può vedere sul suo schermo tutta una serie di informazioni sull'interlocutore che ha di fronte, tra cui ad esempio potrebbe anche avere un semaforo che gli dà l'indicazione se a seconda di quello che il sistema individua nella voce dell'interlocutore, se effettivamente l'interlocutore sta dicendo la verità o meno. Ah, cioè la macchina è in grado di fare la prova della verità. Diciamo non da utilizzare come un vero o falso, però può dare un indicatore di affidabilità. Può dire guarda che forse la risposta a questa domanda non corrisponde al vero, con un indice di probabilità. Succedono già queste cose? Succedono, sì, succedono. E altri esempi? Dunque, altri esempi, io potrei pensare anche un esempio più, diciamo, più vicino a tutti è sicuramente anche quello delle assicurazioni automobilistiche. Le frodi sono un problema importante in questo settore e tecniche di intelligenza artificiale che magari fanno una determinata analisi sulle immagini che vengono costruite per i sinistri, tecniche di intelligenza artificiale possono anche in questo caso orientare e almeno evidenziare i casi sospetti. Quindi riuscire a individuare con maggiore precisione quelli che possono essere dei casi sospetti di frode. Certo. Poi? Ma allora, poi cambiando settore, appunto nominavamo prima il settore della medicina. Sì. In ambito medico, a parte quello che dicevamo della diagnostica per immagini, l'intelligenza artificiale potrà giocare un ruolo importante anche nella ricerca farmaceutica. Quindi per individuare nuovi farmaci. Già oggi si fa un uso intensivo di tecniche di high performance computing, il passo successivo sarà quello di applicare tecniche di intelligenza artificiale per aumentare, diciamo così, per velocizzare la creazione di nuovi farmaci, nuovi più efficienti farmaci. Un altro esempio diciamo che richiederebbe una trattazione a parte è quello della personalized medicine. Quindi il fatto che io possa raccogliere una quantità molto elevata di informazioni sul singolo paziente, anche costantemente, e tutte queste informazioni mi possono dare indicazioni molto precise su quelle che può essere la terapia più adatta per quel paziente specifico. Questo è un aspetto e una prospettiva molto interessante. Abbiamo parlato di servizi finanziari e le assicurazioni le inseriamo all'interno di quel segmento che stanno già investendo molto, comunque stanno investendo per capirci qualche cosa, perché stiamo parlando di cose che non sono mica facili, giusto? Allora no, ma in generale i problemi di intelligenza artificiale oggi si scontrano anzitutto con la complessità della costruzione di queste soluzioni e poi col fatto che le competenze in questo ambiente scarseggiano. Se io dovessi consigliare un lavoro, un filone, oggi a uno studente direi di investire nella data science. Quindi un data scientist oggi trova lavoro ovunque. Quindi ingegneria matematica, quelle sono le facoltà. Matematica soprattutto, matematica, statistica. Sono sicuramente settori destinati già oggi a un grosso futuro. Oggi c'è già forte penuria. Sì, sì, questo lo dicono anche persone che si occupano di ambiti che possono sembrare più naif come la pubblicità, invece la pubblicità ormai è diventata un lavoro da data scientist. Assolutamente, e le tecniche che vengono utilizzate anche in ambito pubblicitario sono tecniche di intelligenza artificiale. Certo, e sempre di più lo saranno per anche lì, invece che fare la medicina personalizzata, la pubblicità personalizzata. Beh, la pubblicità personalizzata è già una realtà da diversi anni, sta solo diventando più sofisticata. Più sofisticata, certo. Quindi quello che si vedeva in Minority Report è una cosa a cui ci stiamo avvicinando. Ma non solo, secondo me stiamo andando oltre anche quello che alcuni film di fantascienza mostrano, io sono in grado di interpretare in anticipo quello di cui l'utente può avere bisogno. Ah, certo. Beh, e qui ci potremmo legare il famoso tema della predictive analytics, cioè la analisi predittiva che serve anche per fare manutenzione. Assolutamente, se pensiamo in particolare a un altro settore che sta investendo molto sull'intelligenza artificiale come quello dell'automotive, il settore automobilistico, se noi pensiamo ai veicoli commerciali, camion e autobus in generale, insomma, sì. Se noi pensiamo ai veicoli commerciali, un fermo macchina costa molto, significa fermare la produzione per l'azienda che usa, certo, quei veicoli commerciali. Quindi la manutenzione preventiva è quella manutenzione in cui, ad esempio, io dalla centralina di controllo del camion, raccogliendo le informazioni dei sensori e grazie all'intelligenza artificiale che io ho sviluppato, sono in grado di dire: guarda che quel particolare pezzo del camion sta per rompersi tra 500 chilometri, vai in questa officina che è la più vicina sul tuo percorso, dove c'è già il pezzo di ricambio e potrai avere un fermo macchina ridotto. Quindi la preventive maintenance, la manutenzione preventiva, è un settore su cui si sta investendo molto. Molto. Visto che siamo nel settore automobilistico, e poi chiudiamo con gli esempi, tutto il mondo della guida autonoma è basato solo su intelligenza artificiale. Adesso solo no, però quasi. No, è una condizione necessaria. L'intelligenza artificiale è quello che ci porterà all'auto a guida autonoma, e tutte le principali case automobilistiche e anche chi prima non faceva automobili oggi investe significativamente in sistemi di intelligenza artificiale. Tutte queste cose accadranno presto, cioè nel giro di pochi anni, e quindi vuol dire 3, 4, 5 anni, oppure un po' più lentamente? Sentiamo che cosa mi ha detto Tom Davenport. We are going to see it soon, but in a pretty evolutionary fashion. Lo vedremo presto, ma in modo graduale. Piccoli programmi in grado di fare compiti limitati che non minacciano il lavoro di nessuno. That will add up and it will threaten more entire jobs as we do more and more tasks. Tutto ciò accelererà e comincerà a minacciare intere categorie di lavoratori, mano a mano che questi compiti si sommeranno uno con l'altro. Probabilmente per i prossimi 20 anni le macchine non saranno migliori di noi a fare tutto, che è quello di cui ci dovremmo preoccupare, ma appunto penso che per 20 anni possiamo stare tranquilli. Dice che possiamo stare tranquilli per 20 anni, Tom Davenport, tu ci credi? Io sono un po' meno tranquillo. Io credo che non sei come me che dice che le cose succedono velocemente, però nemmeno come lui che per 20 anni. Esatto, sto nel mezzo, nel senso che secondo me alcune professioni saranno impattate prima di altre. Sì. Quindi questi 20 anni sono i 20 anni che ci porteranno a sistemi completamente autonomi, sì, e molto, molto sofisticati, ma sistemi più semplici invece toglieranno spazio a lavori che oggi sono più semplici. Quindi, certo, secondo me è un problema, lo abbiamo visto anche nei dibattiti che stanno avvenendo in giro per il mondo, è un problema che va affrontato. Cioè, però non mi sembra che si stia affrontandolo, cioè, lo stanno facendo le aziende di tecnologia, ma tutto il lato politico molto poco. Ma le aziende di tecnologia fanno il loro lavoro, certo, portano, certo, la tecnologia. Il dibattito poi su quelle che sono le implicazioni di queste tecnologie spetta alla politica, e a seconda, diciamo, la situazione sicuramente non è omogenea, certo, quindi dipende dai paesi, dipende, certo, dalla situazione. Certo, certo. Un parere per concludere sulla guida autonoma, visto che tutto ciò dipende molto dalle tecnologie di intelligenza artificiale. Ecco qui che qual è l'orizzonte, visto che ci sono alcuni produttori che hanno detto dal 2020-2022 arriveranno i veicoli a guida autonoma già commerciali sulle strade. Altri che stanno dicendo, beh, però forse abbiamo un po' esagerato, arriverà tra qualche anno dopo. La situazione sarà probabilmente anche qui evoluzionaria anziché rivoluzionaria, nel senso che vediamo già oggi che sulle automobili vengono inseriti sistemi di assistenza alla guida sempre più intelligenti. Anche questi sistemi di assistenza alla guida utilizzano tecniche di intelligenza artificiale, quindi già oggi abbiamo un ausilio di un certo tipo, si parla di varie generazioni, avremo macchine che poco a poco saranno sempre più intelligenti. Poi la competizione tra i produttori automobilistici sarà proprio su questo, si è spostata in questo settore, cioè chi sarà il primo a fornire la macchina che è totalmente autonoma e che richiede l'intervento del guidatore ogni 5.000 km ad esempio. Quindi sarà evoluzionare, come dicevo prima, ma io sono da questo punto di vista abbastanza ottimista, perché vedo che gli investimenti che sono alle spalle di questa industria sono effettivamente notevoli. Molto bene, grazie a Edmondo Orlotti per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie altrettanto. E così concludiamo questa puntata di 2024. Mandateci i vostri commenti, i vostri suggerimenti, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Come sempre grazie per aver scaricato questa puntata nella sua versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale, oppure per averla ascoltata in streaming. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre in podcast, oppure, se volete, in onda su Radio 24, venerdì alle 22, domenica alle 13.30. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, ancora un ringraziamento per la vostra attenzione.